stazione Capacama di Capacamo. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ah, è doppio. Dottor, mangi un rodino di mammo, doppio. Vai, Lucanello. Che tossico. Attenzione, per l'occasione, senti qua, vita mia, la linea di Grecia. Beh, Luca, ciao Gianni, buonasera a tutti e due. E beh, Luca, sì, la voce tipo, frate, dai, dottor Roger qua, vita mia, che... mi sto pensando, fra che ciò, quando era un appuntamento. Dopo ci facciate dormire, no, io sono in macchina, sono andato a fare una commissione, capito? Capo di positivo, frate. Ciao, fra, scusa, stavo facendo roba. Avanti, Luca. Aspetta, già mi sto pensando che c'è un appuntamento alle 7. E ci facciamo in bicicletta, frate, niente. Bicicletta, anzi? Sono capito, cosa cazzo vanno, l'elicottero. Vabbè, stavo che non andavo in bicicletta. Vabbè, ma che non andavi. Non abbiamo già attivato, fra. La macchina già me la compro adesso, appena mi danno l'ok, mi compro la macchinetta. Io la macchinetta giusto per muoversi, capito? E si conferma. Dopo andiamo bene, andiamo in occhi. In che zona sei, fra? Già, sono andato a fare una commissione e sono vicino a casa adesso in macchina. E stavo provando questo 48 che me l'hanno regalato e me l'ho sistemato. C'era il dio lo sparato, lo smitter rotto e quindi ricucevo alcuni pizzi e l'ho messo a posto. Questo va bene davvero, questo esce forte, esce molto bene, ha una bella radio. Già, lo sai cos'è, mi ha regalato quel camionista, forse lo conosce Antonio. Può darsi, non lo so, Antonello lo riconosco due o tre, mi pare, camionista. E abitava vicino a casa, cioè abita vicino a casa, ma è stata in pensione, e vai tu a lui, bravo, sto 48, disse, quanto lo stai dando? Allora dice, te lo regalo, non accendo, non so cosa c'ha, e c'era il microfono, tutto questo là, poi c'era le cose, lo smitter che non funzionava, qui c'era un altro smitter, era mascherina un po' consumata, ma già va bene. Ah, lo smitter te l'avevo dato io, te lo ricordo. Ehi, no, ma avevi dato quello grande, tu, no, facciamo la tutto lo smitter, quello bianco. E allora, era quello dell'Alan 48. Sì, te l'ho dato io. Anche la colonnina tua. No, questo qua è bianco, lo smitter. Era quello che mi avevi dato, quello modificato. Sì. Ecco. Però io lo smitter adesso ne ho anche un altro. Del Superstar. Capito, tutto colorato, ma sai quanto è bello. E lo so perché ce l'ho il Superstar. Cavolo. Colori azzurri, rossi. Bello, mi verde. Cavolo. Tu come mi ascolti di radio, fra? Ma no, ma sì, già. Io sono una bella modulazione, complimenti. Quella anche usato. Eia. Una bomba. Va bene, già. Io uso. Già, si può muovere. Cavolo. Attento, Luca, se ascolti qua questa piccola stazione con l'antenna di gomma, cambio. Che bebe. Ma c'è anche Luca Fitta. Ciao Franco, buonasera. Sicuramente non mi ascolti, Luca. Sì, fortissimo, bella, sì, è una bella radio, un bell'eco, complimenti. 9.30, sì, fra. Ho detto che c'era un disaccordo con quella cosa. Sì, no, va bene, giusto. Caragava, Gianni, riprendi. 9.30 qua, sì. Niente, addirittura. E a te, Luca, quanto sto arrivando? 9.25 qua. Ti dico sia che sono in mezzo ai palazzi pure, capito? Allora, purtroppo. Ma quello è modificato anche di batte, fra. Capa, questo è tutto modificato già. Questo qua è modificato di batte, poi c'è la scheda ecco, poi c'è il calcio di sopra, c'è il bippi, e poi non so che altro c'ha, perché non si comprende un tempo che bisogna vedere le vette, a volte tocchi le vette e fa altre funzioni, e vabbè già, me l'ha regalato, già va bene, ma c'è la mia la battaglia. No, esci bene, secondo me la radio che sento più forte di tutte quante, di quelle che ha avuto. Vabbè, l'eco l'ho regolato così a minimo, capito, che va bene così. È di lusso, va bene, ti dà l'amplificazione, non disturba. Ma infatti, già va bene. Poi c'è un bel picco di modulazione, pagava. Vai Luca! E picchia di modulazione, c'è. Esce bene, ho detto, quando parli da 7 va a 9. Ah, oh, di lusso, grande. Beh, con un'antenna che ha, dai. Se buccio di polo. Un'antenna di gomma. Sentiti di gomma, vai, in casa di gomma, in macchina di gomma. E allora? Salame la bozzina di gomma, allora vai, ti si faccio termorestringente. Guarda, va bene, infatti non ha di gomma che fa la grande. Tanto non è stazionale, arrivo tagliando con la forbice, no? Oh, bisogna tagliarla in due, e poi la riaggiungi. Ottimo allora, ottimo. Vai già. È musi. Vabbè, comunque io sto guardando qua, ma picchi negativi c'ho. Ok, qua nello smitter me li dà positivi, e invece nell'alimentatore me li dà negativi. Qua stai uscendo benissimo qua, i picchi sono positivi. Ultima modulazione, alla grande. Cava la gava e cava cava. Luca Rie! E Luca doveva uscire, Gianni. Ah, ecco. Acciugavito. E tu vai a stare rientrando a casa, Fla? Sto tornando a casa e poi devo fare alcune cosette delle commissioni. E poi non so se c'è la campagna, perché stavo tagliando dell'erba ieri e mi è arrivato un bel pezzo ancora a tagliare. Per voglio venire qui. Non ne posso più di quest'erba, guarda. Sono incasinato perso. E poi piove, ricresce di nuovo. L'hanno tagliata anche sotto casa, in pochi giorni è cresciuto. È una rottura di palla. Lo so, però tagliarla bisogna, perché poi con l'estate si secca e gli incendi sono in agguato. Lo so già, cosa vuoi fare? Luca, che ci dici? E Michi a quanto ce l'hai già? Sotto la I? 10. No, e Michi dov'è? Sotto la I? Lascialo lì che va bene. Arriva a 10 il povero. E vai che grime è sotto la I? No, sotto la I. Fatto, Fra. Ola. Va bene. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Andava bene. Ti sto andando con l'alimentatore, quello da 50 ampere, tipo cinese, dai. Però non è cinese. Sicuramente c'è qualche cosa partita in quell'alimentatore là. Ho qualche diodo. E se vuoi andare un gassone che ti dice quelli, che sì, ma non ricordo il problema, buh. Ma tu fai veloce a qui con un gassone. Se non c'è nessuno che gli ripara qualcosa, me lo tenga a fare. Lo prendo nuovo, buh. Già, non deve ripara nessuno perché ci vuole l'attrezzatura data per fare. Capito, il scopo è qua. Non è altro che quell'attrezzatura, ci vuole la lente. Ci vuole un po' di te, ci vuole lo schema, è un casino, è così. Ma che problemi ti fa? Non ti dà una pena. Allora, il volto mi dà, va sino a 13,6 volts, e invece ampere non è là, perché ho provato a accendere l'apparecchio e non ce la fa alimentare l'apparecchio, non si accende, capito? La ventola riesce a farla andare. Ma non è che entrate in blocco termico, no? E che ne so, Fra? Non si entrate in protezione, perché quello c'è una protezione. E comunque lenti qua non ce ne vogliono, ci sono tutti quanti i componenti che sono enormi, cazzo, che lenti ci vogliono? Vabbè, ma sta crescendo. Può essere pure qualche condensatore, l'hai aperta a controllare se ci sarà qualche condensatore sparato? L'ho aperta ma non ho visto niente di che, non sono riuscito a vedere nulla. Allora. O c'è il termico partito lì, o è il blocco termico, capito? Perché se fai un blocco termico non ti dà neanche ampere. Un attimino. Va bene, dai, riprendo da casa, già. Ok, dai. E rieccomi. Eccomi qua. Ma, ehi, apra, ma... No, già sto uscendo. Sì, stai uscendo tranquillamente. Comunque Luca, già l'ho visto in foto, è bello, è nuovo. Ciao ragazza, bello sì. Rogero, anche il prezzo è buono, secondo me. Costa 80 e passa euro quello, se non di più, Io viraggio, non me ne posso buttare, se no Cosa? L'alimentatore da 32. Io ne ho due alimentatori, ma uno lo tengo sempre di scorta, capito? Eh beh, già, ci vuole. Io ho quello da... quello grande, che ci avevi prima tu, e poi ho quell'altro, ne avevi dato tu, quello da 32, e poi... e poi ne ho tre, ne ho, e poi ne ho uno da 15 amperi, con gli strumenti. Ma quello grande, le luci, lasciategliele hai. Mi ho buttato tutto a terra e gli ho rifatto tutte le luci di lusso, con le cose, con i led. Led bianchi, e quei led che c'erano, gli ho distrutti, ho fatto tutto il circuito, ho fatto bene. Ma io mi dai quello lì e ti do il mio. Vabbè, non mi rispondo. No, quale? Quello grande, chi tu capisci? Quello che ho tutto ripristinato io. Quello non lo do più a nessuno, quello alimentatore. Già, mi ero pentito quando l'avevo dato, perché non li trovi più, e quelli sono dei muletti, quelli alimentatori, vanno bene, già, una bombetta. Ma non ricambio con quelli tuoi che fanno adesso. Io ne ho uno 25 ampere già di quelli di vecchia generazione, ti interessa? Aspetta, io no, 25 no, lui, lo vuole almeno 50, 45 e 50 ampere. Ma questo qua te lo regge che è molto capito. Sì, già, quello di notti viene 25 ampere, va bene, da poi alla notti viene, cosa vuoi io? Ti dato, ce l'ho avuto pure io, 140, qualche anno fa. Già hai visto la foto, c'era anche il VU, cazzo bello quel VU, me ne sono pentito, bello, proprio bello quel VU. Ottiene, lo regge già, è come se lo regge. Se c'è un tipo portabello uguale al mio, uguale identico, 120 euro. 150 da 50 ampere. Buono. Comunque lo regge perché lo usavo io. Vabbè, non lo do, sto scherzando. È lì nel mobile, no, non mi chiede niente. Sto usando quello switching. Quello cinese, è un cinese. No, è proprio cinese. Quello ce l'avevo prima, sì, questo l'ho preso da un tipo su eBay. Questo qua è una scheda più, una cosa più seria, ecco, componenti più seri. Non è proprio cinese. Va bene. Per quanto riguarda la vetta gli ho messo una resistenza e gli ho diminuito i giri. Infatti mo così si sente. Così è spenta, aspetta. Ah, così è spenta. E questa così è accesa. Adesso aggancio pure, io sono agganciato. Lo regge che è una bellezza. No, non si sente. Già, si possono fare le cose, basta uno si mette e fa. Ci vuole una resistenza, gliela metti nel filo positivo e ti rallenta i giri della pentola. Già lo so, la pentola fa l'affitto attenua sempre, ma la ventola mi dà la resistenza. Basta che non si abbatta la resistenza, fra. Sai che vuole, da 1200 ohm. Me l'aveva detto Giulio. Oh fra, ma farà due. Vabbè, a me mi è partito l'alimentatore di quello da 50 ampere. I VOS funzionano e gli ampere no, non funzionano gli ampere. I VOS mi risegna, ho provato col test, 13,6. No, c'è nessuno. Quella giusta. Non lo so, non so dove portarlo. Sono i gruppi, chiedi, glielo spedisci, un bel pesa. È pesante, il mio è pesante. Non me l'ho capito. Poi bisogna vedere se ne vale la pena. Con 150 euro lo prendo uguale identico, nuovo. Capito. Non saprei cosa dirti. Logarie, che combini. Franco, ci sei? Te la ti via sopra. Chi è là? Sento bene, va Gianni, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, sì, fra, mio, va bene. Cosa già? Guardo quando sta arrivando. Cosa? Oltre 9,60. Già, oltre 9,60, sì, da. Tu vai appena più avanti del 9,60. Lo stesso segnale è tuo, c'hai tu. Tu arrivi 9,60, quasi, non è vero che arriva 9,60, giusti. Ciao, gara. Poi c'è anche una bella radio. Ah, beh. L'ho tutto lucidato, perché fumavo questo qua e c'è una puzza di sigaretta. L'ho tutto lucidato e con lucidacruscotti, che se lo fa tutto profumato, non si intende più nulla. Ma vende di lui. Mi aspettano a venderne, a tenertelo. No, non è vero. Ah, te ne dico già, lo già vendi. Questo l'ho comprato da un negozio, non è che l'ho comprato a privati, capito? Era già tutto testato, prima di sanitario li testano tutti. Beh, almeno è controllato, capito? Cioè va bene comunque, la radio va bene lo stesso, una bella modulazione qua. Cava cava, va bene. Anche la storia è bella. Poi si sente proprio la voce, capito, è inconfondibile. La senti questa voce, la la la la la la la la. Ma che microfono c'ha tutto? Sì, normale MC. Capito, e il pro c'è inserito? Sì, penso di sì. Ok, no, va bene la grande, di lusso. Quindi va bene già ora per il crescere in macchina. Io avrei lasciato quello. Così forte non ti ho mai sentito. Vabbè, allora lascia ancora. Prima c'era quell'altro già, ma ne ha giù guardato. Qui ti ha regalato questo, lo lascio in macchina. Fate la battaglia, amico. Ma giusto quando il viaggio l'ho messo, capito? Te l'ho detto che era tanto tempo di mettere quello lì che metto. No, boh, questo è più piccolo, non dà fastidio. Vabbè, io non avevo ancora provato quello lì già in macchina, capito? No, ma va bene, si sente bene la radio. Luca Flipper. Dimmi. Che prenditela. Vi stavo ascoltando, no? Che sto ripristinando il computer, capito? Che devo mettere il software per il 7003. Vendi, sì. Io me ne sono assillato. Stamattina mi sono dovuto inchinare per passare i cavi, tutto quanto, perché ho cambiato l'alimentatore e ho messo l'altro. E tutti i figli ho dovuto passare nell'altro alimentatore, un casino qua. E ci devi stare molto attento, perché se metti i figli è un casino. E quando mi sono alzato, sono andato ad alzarmi, io fra, ero tutto droncato, non riuscivo a pigiamini, mi faccio male chi. La brevi, mamma mia, quando ci hai messo in casa. Io ho sempre quel mobiletto, un casino che non ti dico. Mi ha incicciato il dolore, cazzo. Mi sono praticamente arrugginito, come mi sono stato seduto per un po' di tempo, poi non riuscivo più a alzare. Cazzo, mi ha dolore. E oramai sono cronici questi dolori, maledetti. Ma io non capito come ha fatto quell'alimentatore, così. Cioè tu hai collegato tutti i fili, sicuro sì che erano tutti giusti, a posto. L'hai acceso ed è morto così, all'improvviso. Oh lui, io prima di accenderlo ricontrollo tutto. I fili erano messi tutti perfettamente. Non ci avevano nulla. Come io sono andato a accendere l'apparecchio, si accendeva la luce verde e non si accendeva. Non si accendevano i numeri della frequenza, eccetera. E poi praticamente è sparita anche la luce verde. Quindi segno che non ce la faceva. Però vabbè, io ho pensato che era l'apparecchio, ma non era quello, era l'alimentatore, perché quello sull'altro apparecchio faceva la stessa cosa. Sono quelle cose che succedono da un momento all'altro, cioè magari ce l'hai 100 anni, l'alimentatore non te l'ha mai fatto, di colpo te lo fa. Come noi, no, siamo tranquilli, ti dai un infarto e cribemmo, hai capito Ernesto? Lei era stava già partendo magari, no? No, era tranquillo, non dava nessun segno di squilibrio, perché lo usavo, quando attaccavo il cobra era attaccato lì e andava bene. Secondo me tra le protezioni dell'alimentatore, andate in blocco termico, capito? Sovraccarico. No, non ce l'era sovraccarico, c'è attaccato solo il cobra, poi vabbè ho attaccato l'altro e il cobra era spento, però che sovraccarico c'era fra? Nessun sovraccarico, perché anche se c'erano attaccati i cavi, uno era spento. Strano, una cosa strana. E magari una gazzata, magari una gazzata. Beh, se gli apparecchi erano spenti, fra, che assorbimento ha fatto in quel momento? Niente. È quella la cosa strana. È quella, infatti, che bisogna pensare. È una cosa strana. È partito qualche condensatore dentro. E da guardare, si sa che cos'è partito, basta guardarlo. È stato perché era bello l'alimentatore. Ma se lo proponessero che era giusta, dico tu va a finire via. Lo smonto, mi prendo le parti che mi interessano e me lo ordino uguale, così almeno c'ho i picchi. quindi se mi serve qualche cosa ce l'ho. Ma basta anche una 32 già, anche la 25 ce la fa lo stesso. Ma io li voglio Ambrosi. Sì, non sono lineare, già, poi più grossi sono, e ti vanno a radio, no? Ah, lo so, cavolo, io adesso vedo, là. Quello lì 50 euro, lui. Quanto è? Da 30, come questo che ho io, questo sto usando adesso. Sono da 30, vanno benissimo, intanto c'è il display che ti indica quanto sta assorbendo, capito? Che come quello che ti fa meglio. È bello, ci sono tutte le foto anche, messo benissimo. E come quello che avevi dato tu già, ti ricordi quello nuovo, uguale identico, con la ventola, l'attacco dell'accendino, 32 ampere. 30 ampere comunque. E quello lì era buono, quello lì era nuovo nuovo. Ma ce l'ho sempre, ma tu mai problemi da quando ce l'ho con l'alimentatore. Mai. C'era anche un uomo che avevo. È nuovo nuovo. Un grazie. E poi te ne pigli il cazzo di aver dato le cose, perché quando ti si rompono gli altri non ce li hai. Vabbè, è per non avere mille cose in giro, capito? Guarda, io ne ho regalato uno stamattina, quello che ho messo su Facebook. Ma che era Facebook, in quanti mi hanno cercato su WhatsApp, su Messenger, Manni, guarda, spedisci quanto, come se era di buccio, mi ha telefonato un amico, lo prendo io pronti, ben appigliattivo, 10 ampere, ma già, sono di chi di bisanti, non me ne facevo niente, era sempre dentro il mobile, funziona e tutto quanto, 10 ampere, però, cioè per regalarlo, ho capito, è rimasto contento. Ma quello ce li ha tutti così da 10 ampere, capito? C'era uno della GBC, di quelli vecchi, ti ricordi? Sì, questo era un alimentatore che lo usavano per la radio, non so se è roba di ambulanze, una cosa del genere. Non lo so. Che marca era? Maxon. La Maxon fa quei portatili SOS eccetera eccetera, ce ne presenti quei portatili, quelli che hanno fatto davanti, che escono un bel forte. Marco ce l'ha, il Marco Condor. Quello lì è nigeriano adesso, non risponde. Che cosa? Che è nigeriano, Marcolino, insieme a Natalino, non rispondono. Allora c'hai il rugasino. Ti devi provocare. Ciao Natalino. Buonasera a tutti. Io sono rientrato adesso, che stavo facendo cosa? Se non rispondevo vuol dire che non c'ero qua. È nigeriano? Sì, è nigeriano, chi pure tu sai? Sabato invece una cosa fatta nuova per una ripresa. Oh fra, ma ti immagini sempre con me così la biglia che ci lucca, ma ti senti che era nigeriane, c'è una cosa che non ci credi. E allora meglio di chi su lucca la fuggione, ma davvero cazzo che mi dice che sto con guacuomane addirittura. Andiamo pure, vai Gianni. C'ha ragione, concreta, ci si. Ma allora può uscire già, mi sa che è uscito. E lui che se ne va a nigeriana e la moglie di Zallassi. E infatti stavo andando a prendere la si è visto, te l'ho detto io, adesso quando torno lo faccio meno. È andato in bicicletta a prendere la ha detto vorrà provare l'emozione in bicicletta. Sì, l'hai presa del volo, vuol provare. Non vedo, ce l'avevi a ripulire. Un grido. Luca, ma te l'immagini con che gente abbiamo a che fare? Tutta gente, gentaccia proprio. Padrumendi è Natali. Cosa hai detto, bravo? Ho detto che sta suonando qua. Ma gente giunuda, con la televisione non li faccio lui. Ma con i sarrado, non si sente nulla. Adesso che sta suonando? Sì, ho capito, non sono sorda, no. Sono sardo. Non ha la toppiuccia, di nuovo, per carità, ma non si prende nulla. E cosa vuoi che ti dica io? Tanto non comandiamo noi, no, fra, comandeggia chi su di Rubiano di Sobra. Noi non comandiamo, no. Quando tu dici oggi per Musoli e fa di soli. Se dici domani pioggia e domani fa pioggia. Mica comandiamo noi. Vuol dire ci prendiamo un po' di acqua. E fra, infatti non ti progresso a tagliare l'erba, va a fare zeva che se torna la griscia. Ma che bivo qui cresce intorno? Ma che magrissima, trucca erba. Via, piace combustibile sti gatti, non sarà il tempo, io spero solo che sia per il tempo, che poi passi. Ma rimani mi quasi amari lo femore da Rabassi destra, oggi da Rabassi sinistra. Mi chiedo come ho fatto. Vai due a pella la mamma, già. Che io potrebbe essere il cambiamento del tempo che ti fa questi scherzi qua. Ma rimanno più di manco camminato. Dopo una settimana. E dovevo fare delle commissioni. Sono andato a pigliare la macchina, ma ammazzato. E io stamattina mi sono capitato perché ho dovuto passare tutti i cavi da quell'alimentatore, ho dovuto passare all'altro. E ho dovuto togliere tutti i cavi e rimetterli dall'altra parte dell'altro alimentatore. Mi sono inchinato perché l'alimentatore è solo giù, proprio per non dare fastidio. Se non le dici il mio avvisamini, tutto canta, tutto un uncino io, tutto a dolori. E poi mi sono dovuto girare, inginocchiare e da inginocchiato ce l'ho fatta. Ma sempre mantenendomi a letto, perché se no non ce la facevo. E a chi era sei inciutato, ma chi so è? A me pure mi parli così. Come siamo ridotti, gatti. Avevo due esami di manco e li state brincando. Sono viva. Mi pare che sono i vaccini che stanno infatti. Sì, da voi questa stanchezza che ti viene strana, senza fare un cazzo. Se sei più travagliato, avevo detto che c'è la cacca di travagliato, ma non so come vendi un tubo. Parlando in termini idraulici. Sono andato così, mi sono svegliato nel divano, boh, drumito, e mi sono svegliato alle 4. Adesso stavo facendo un esperimento in cucina, voglio vedere se ci vuole per me, tra che posso più tardi, stavo sperimentando. Il video è sempre lo stesso. Ho visto una ricetta da noi chef, vediamo un po' come esce. Non ho capito nulla, accetto più il televisore che a te, Natali. Ehi, è vero. Questi microfoni purtroppo il preamplificato raccoglie tutto. Vai Gianni. Sì, il televisore lui dice sempre che lo mettono a basso, però lo amplifica. Lo sovramodula. Non invece la novità. È vero, ci troviamo la televisione che è Natalino. Ma cazzo, devi recuperare un paio di cuffie a concetta, di quella senza filo, come avevo comprato io a mio padre. Così lui ce la metteva perché lui non sentiva bene, allora alzava troppo il volume, ma non si rendeva conto, capito? Quindi per sentire bene gli ho preso quelle cuffie senza filo, ma era un bombone, lui sentiva l'aliluscio proprio bene, sentiva, capito? Con le cuffie attaccate all'orecchio. Guarda, molto si sente il televisore, ce l'ho a due il microfono, mi. Già si sente ma poco adesso. Ma va bene, adesso una pelle, ma poco fa si sentiva un bel, ti copriva. Cazzo, ed è basso, mi. Ma giù, durata bassa, e in più c'ho il microfono a due, non l'ho alzato, perché se alzo il microfono, gatta, amplificare un mattino. Sì, gruppo. Bacio, insomma, dai. A due ce l'ho, l'MB+4. Non lo posso alzare di più se non si sente, è un bel televisore. Vabbè, sì, amplifica un bel quel microfono. Va bene, vai Luca. Maestro, mi sento Natalino. Ah, ti sento, perché non ti sento. Se non ti intendo ti aiuto da un po' tutti. Ti ha chiamato due volte. Diglielo già. Ehi, dire che mi ero spostato in cucina un attimo, che stavo sperimentando e non ti ho sentito per quello, ma se sono qua già ti sento. Ho che avevi messo non solo una spugna dentro, un pezzo di gomma a piuma, e stava andando benissimo. E allora cos'hai fatto? Bucata mia. No, c'è la cosa, gliel'ho messa quella spugnetta dentro il microfono, adesso c'è. Forse magari come sollevi l'amplificazione, boh. A due il microfono. Cazzo, si la bacia ancora, non esci. Quanta gente? Avevo fatto un bel caffè io. Alla faccia mia, no? Troppi ne stavo pigliando, allora devi stare attento, un caffè. Troppi. Oggi ne ha giubilato due soli in tutta la vita. E allora non prendo neanche io, perché c'ho mal di testa, che normale che sono i troppi caffè, oggi ne ha giubilato un bene. 1, 2, 3, 4, già un caffè ha giubilato. Se c'è mal di testa, prova a farti una limonata. Col succo di limone proprio. Dice che passa mia moglie. Ma sai come passa in fretta? Prendi il caffè, mi metti 4-5 gocce di limone. Ma non un litro di caffè però. Mi metti anche un cucchiaino di limone, ti basta in 5 minuti. E mia moglie fa così lo stesso. Per il mal di testa. Allora provo adesso. Lei provi. Tu pieggiare il limone in kiwi e vedrai. Tu. Stanno dimostrando di essere più forti. Invece io ho un sistema che te lo faccio passare esagerando in 40 secondi. La scommessa. E io non soffro di mal di testa, quindi non lo so. E cosa fai tu in 40 secondi, Nara? Cosa che ti devo fare? Natale, non si può, capito? Non è una bacchiglia, no? Davvero? Davvero? Sì, allora, 40 secondi, devo abbassare, massimo 40 secondi. Ma che la devi dire, non mi dico, a posto, di russo. Comunque non apparisce, e voi ve lo dico a quello, per i massaggi se li vuoi fare, per la gamba. Per la gamba non vieni buono i massaggi, no, l'operazione vivo. Tanto questa terra. Ma cosa, si pereggiano i passaduti, perché c'ho l'arteria ostruita, ecco cos'è. Quando mi arriva il sangue bene vedrai che non me lo fa più quel dolore lì. Allora sì, arteria ostruita, allora per quello. Che pastiglie stai prendendo? Cosa? Ho detto che pastiglie stai prendendo. Ma non sto pigliando nulla, che non ne posso pigliare, dolorifici e né niente. Tanto non fa in effetto. Ma cosa sto pigliando? Come cavolo si chiama? Sto pigliando la cardiaspirina e non posso prenderne nulla. Posso pigliare solo chissà parabrema, come ti cazzo si chiama. Tachipirina, e chi sa cosa mi vazzi? Manco Rubero mi gocca. Quello non ti vado nulla. Una volta che il farmaco continua a prenderli, poi non fanno più effetto. Oh, ma io è perché prendo la cardiaspirina che inibisce l'effetto degli antidolorifici. Capito? È inutile che io li pigli, ma cosa non fa in effetto. Ho capito già io. Ma dai, loro che quando entra oppure andarsene. È un casino. Se quando mi hanno operato tutte e due le volte me l'hanno fatta smettere per 4 giorni, vuol dire che è un motivo, no? E si conferma. Hanno chiesto il parere al mio medico, hanno chiesto se me la potevano smettere per 3 giorni la cardiaspirina, perché io la devo prendere per forza da quando ho avuto l'infarto, quella roba lì. Certo che sì. Vai Gianni, lasci un barendi. Vai Luca. Stanno bruciando gli occhi. Cosa? Che mi stanno bruciando gli occhi adesso. Se vai a sciacquarmeli perché ce l'ho asciutti, boh. L'ha vista, forse la troppa luce. No, si stancano e si chiama secchezza oculare. Ma qui devo mettere le luci. Ho finite, cazzo e fra. Le ho finite io. io soffro di questa cosa. Lo so, ci vanno a lasciare le luci. Ho capito. Vabbè, già siamo posseduti tutti regia, per carità. Vai Natali, vai. Lui hai male di andare mari cronici. Davvero? Già ci ha proprio tutti i chili. Già. Sì, non avevamo bisogno, manco di baracchino, non avevamo bisogno. Per la bocca la zona in ferro, Natali, che lo devi fare. Davvero, mi gira io, mi posso recuperare i cronici, armanco, finish. Tu mi bisogna più merivone, però, anche se vuoi che fanno la puntura ci vuole la mano delicata. Beh, io sono bravo a fare le punture. Già, quando mi hanno fatto il vaccino, sono detto subito, quando c'era quello lì alla... Quando mi faccio dei vaccini lì praticamente a Predanita, sono entrato per la vita. Ma che mi l'ha pensato, si sono le granaglietta, certo ha detto mamma mia, che ti avevo fatto vedere il tenne. Pronto è, ha detto cosa deve fare, va bene, ammazzare. Oh, mi ha fatto una puntura, mi ha fatto vedere i selli già, le selle ha giunto. Allucinante, no, io già c'ho mano buona, mi chiedi la Natalina, la Natalina non gliel'ho fatta lì dentro. Già ne brava vero, cazzo, non senti nulla. Io non ricordo per esempio le visioni, sì. Però già ne va una mano. Guarda, non ho sentito niente. Io sono fatto lo vaccino, da giusto. Guarda, deve fare della siringa in terra, no? E la stava raccogliendo, dove la faccia? E c'è... ascolta, la butti in via per cortesia, sì, che se non mi rifiuto di fare il vaccino io. Allora, la stessa è incazzata, l'ha detto un'altra, l'ha caricata. Sa, che ma chi tu l'hai detto cosa? La tira fatta brutta, c'è vendicata. Infatti mi la rompi le rughe, la giusto, rughe. Preparati via, andate, a chi ci ha fatto via le sede? No, vedi. Che c'è il coso che ha fatto? Il livido. Figura un po' come una macellaia. Ma devi far vedere c'è l'infermiera di coso, di veterinario, lì, ragazzi. Sicuramente mi ha dovuto la ricavarli. Cos'è il Zaino Bighele? Mi accompagno, mi. Devo sì, l'ha provata, sai Zaino, Usso. L'ho provata. Antonello, buonasera. Le truppe sono delicate, non ha truppe che hanno la mano di piombo. Non so tutti vanno la mano risera. Gianni per esempio già è bravo perché me l'ha fatta a me una puntura, la verità non ho sentito nulla. Ci vuole anche per fare quelle cose, ci vuole arte. Perché non sono tutti che hanno la mano leggera. Ma questa sicuramente la lavora per qualche clinica veterinaria, era abituata a fare le punture ai cavalli, questa donna qua. Ci la vuole mai Natali? Quella è la passionazza di nuovo, Romy. Allora, di quelli che non hanno pelo nel cuore. Si cudiva a parlare di bini, ci ripeva. Bene, no, non è bini, ti ci stavo io. Oh, io con la camera fatta non ho sentito nulla, però dico la verità, io tutti questi dolori non li avevo mai avuti, adesso che sia cominciando adesso, però non li ho mai avuti tutti questi dolori così insieme. Io ho tutto il corpo che mi fa male, cazzo, le dita delle mani, le giunture, dove ci sono tutti i nodi delle ossa, insomma, tutto a dolore, insomma, le retina, il collo, stamattina anche il torcicollo a me. Tutte attrosi, sovissi già, a vecchiaia, cazzo di una bisemmo. E tu non vedi se si sempre, tu mi ci puoi domandare un conto, e così è. E allora, quando eravamo giovani, cazzo, Maria Milioni, Maria, mi cazzo, facciamo gli spavaldi, i travaglielli, no, cavavamo la voce, chi te dà, a vacca, non si vima nulla. No, a te mi viene da uno che va via la mania di una butta, e infatti mi viene a dire così bisatte, vai, che se non mi la fai la sola, io, avanti non posso più dire, tanto noi non lo facciamo, lo facciamo io, non ce la bizzava, e non ci facciamo l'occhiolino tutti i cazzo. Allora, solidarietà. Se uno non se la sente non lo deve fare lo sforzo. Allora mi ha detto non faccia nessun tipo di sforzo, ma di tu, la diabetologa. Lo so, però come fai? A volte devi portare l'acqua su e devi fare lo sforzo, devi caricarti la spesa, perlomeno io vivo solo, devo fare tutto da solo, vi porto le buste della spesa, io ho portato 6 buste di spesa più 2 casse d'acqua, non ti dico guarda, lo sforzo ho fatto la propria. Penso per più di sì, e se non ripetono di Rughero Sene. Abbiamo delle difficoltà a farmi dai nomi. E che lo Sene pesa lo stesso perché mamma faceva bene, ma la stufa che lo Sene. E quando lo portavo su pisava. Da poi Rubiaco che parte, mamma mia, se lo Rubiaco non aveva più pigliato. Pure io ho questa stufa qua, che rosenia. Che odore non è fa? Ce l'ha uguale Franco, me. Fra dite anni fa di Fiago chi sa che va e ma va. Ho fatto un giro oggi. Chi da veccia si chi ruba via. Ma chi sa non è fa odore. Incredibile. Vanno bene con le stufa già, perché ce l'ho io e non è fa puzza. È scalda, ti posso dire che io accendo l'inverno. La rete cucina, mi scalda tutto, capi tutto. Poi la sposto da lì e la metto a camera da pranzo. Però quest'anno neanche il soffa pellet l'ho acceso una volta in buco, perché stavo utilizzando quella lì praticamente, andava benissimo alla grande. E per forza consuma di manco, di chi da veccia, chi va vivo io, e più scalda a 2 volte tanto. E beh sì, perché c'è la ventilazione, capito? Quella ventilazione non ne aveva. E poi quelle soffette che fanno una puzza di carosene, baccaridai. E ne ha già mal di testa. Ma mamma ci aveva quella grande, quella con i tubi, eccetera, eccetera. C'era quella lì. E quando ce l'ha detto contrario, che te la via a manda, scia pure. Scura di... Anche la mia era grande, quella che c'avevo prima. Però con questa qui, guarda, consuma... Ora manca la metà di quanto consumava chissà manna. E però scalda di più. Perché c'è la ventilazione. Adesso vogliamo parlare. C'è uno che sta chiedendo il break, sta facendo. Avanti break. Avanti break per un controllo. Dai, avanti, non fa vite, vabbè. Ma io non l'ho sentito, io non l'ho sentito. E neanche io, perché mi ho preso il vizio di chiudere lo squelci, no? Se non passi lo squelci non ti sento, capito? Quelli bassi bassi non li sento. È la più pio proprio. Giurati. Al minimo lo squelci, al minimo coso, lo spento, l'ho messo, in modo che quelli che arrivano con un certo segnale entrano. Però se non arrivi a me a quel segnale non lo sento, se no mi tocca di tutta la lì Lugoso, l'ubrigittorio di QRM. Ma di QRM? No, io non ne ho un'altra di QRM, vabbè, per antennare in bagivo a stazionare, Allora questa antenna c'ha 1 e 2. Già va bene, non è tutto. Ma non già, adesso per un po' di settimana. Se non era questo tempo, salvo solo la butto giù, Sì, la gente che è tutta l'idea di dall'epoca che ha fatto, la gente che fosse un po' di caso, bravo. Se non fa di tempo buono, non ne va. Sì, certamente. Ma infatti la faccio di mattina io, quando scalda, non la faccio di pomeriggio, Ma metà la mattinata, come, verso le 10, c'è mezzo. Attenzione, Bonetti. Non dobbiamo andare a entrare, dai, attento la piccola della Sicilia. Avanti, avanti. Ciao Tony, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Gianni Natalino Franco, buono so che c'è, pirimi per me. Ciao Tony. Ah, frate, ero dicendo, chi da guarnizione, sempre se scollenti. No, attacca con giù, con la calcio. Ma gliel'hai fatto quel lavoro che ti ho detto? Non è che ci attaccano? Sì, però quella colla non ha attaccato la guarnizione, capito? Quella che gli abbiamo messo. Non è che ci vuole qualche altra cosa, no? E allora ne mettiamo un altro tipo di colla che c'ho io, vedrai che non si stacca più. E a chi un guida non andava in offra. Va vabbè, ci voleva una cola particolare, già c'ero io a campagna con la cola, non ricordo, la porto su, la faccio, va. Mille chiodi. Va, andare. Cosa ci racconti? Franco. Ehi, tu li dimmi. Eh beh, a che punto è quel minchiofono? Il microfono è quasi a buon punto, vai. Vai, così me lo attacco. Caragava. E allora, Gianni? E allora, 60 minuti. Ehi, cappa, è qualche secondo in meno. E i temi contas. Cosa racconto. Niente, ho fatto il tempo stamattina presto, alle 6 mi sono alzato, ho lavato la roba, asciutta, poi quando pomeriggio ho sentito qualche tuono, tempo brutto, ho detto, boh, e ci verrà già asciutto, sono una magna. E invece non ha piovuto comunque, è passato all'arco, andava bene. E infatti era minaccioso, ma poi non ha piovuto. Cappa. Natalino, Natalino. Uia, che stavo parlando con la 50. Ah, ok, va bene. Franco. Dimmi, Doni. Ma domani scendi e prendi il caffè, che c'è anche mio fratello, così lo conosci. Ma domani mattina, se ce la faccio, ci passo, vai. Perché oggi era incasinato nero, capito? Stavo creando dei lavori, è un casino, tutto lì. Allora ce la faccio, che ci passo, non c'è problema. Poi bisogna dire cosa vuole fare questo cancello, se bisogna portare la piastra bisogna tagliare, non è l'unica di qua, così è. Capo, io verso le 10:30 vado. Lui ti mette d'accordo, così se ci apporta la salvatrice alla porta, capisci, la maletta, e così fai il lavoro che devi farli. Bene, bene. Bisogna per forza tagliare, perché è inutile che stai lì, quando dici non slittano, va bene, tagliare la piastra, segnarla, ritagliarla con la maletta, è risaldata, capito? Fa una volta più veloce, allora. Capo, per forza, è l'unica soluzione che io ho pensato. Le viti non uscivano, due sì, due no, ho detto qua bisogna tagliare e fare tutto nuovo. E infatti ce n'erano praticamente, era una, lui, due che non mollavano, una mollava, capito? Io l'ho tolto due soltanto, le altre due sono uscite, allora ho rimesso le altre due e basta. Però no, è un casino. Ma tu il discorso che tu sono stato là, non c'era la serratura elettrica lì, è tutto marcio, capito? Non puoi toccare, per male tutto in mano. E allora, l'acqua viene comprata tutto il nuovo che faccio prima. Ma cosa Natali? Fare come vi avevo detto io, a prendere la moletta e a tagliarla quella vecchia, la piastra, no? E gli mettete una piastra nuova. Sì, aspetta, io quando la prima volta ci ho provato io e niente, adesso no, qua bisogna tagliare tutto. Poi giustamente è venuto anche Franco che ha usato pure la salvatrice, eccetera, eccetera, però Franco, vedi tu cosa puoi fare. E metti il mio idea quello lì, poi. Tagliamo la piastra, gli rifaccio la piastra sua e poi gliela risaldiamo com'era, capito? Perché altrimenti abbiamo accellato, mi hai potuto esaltare un cancelletto. Gianni, non ti addormentare. Non ho capito tu. Non ti addormentare. No, non mi sto addormentando. Solo che con chi sta a radio, chi vai, cazzo, mi sei a tambare. Perché, massa? È troppo forte, non si ricomprendi nulla. Andate a dire di non sì, la vozianca, vedo ben confuso. No. Fare salotto vuole bassa la radio, non alza così, è troppo alta, ha ragione Gianni, chissà chi fa il due, è troppo alta a dormire la radio. Ehi capo, ma noi non siamo a fare salotto qua, il salotto si fa la sera con bel tè e biscottini. Smala tutti, non si va, si fa vinto, no? Se vuoi ci bevi, devi abbassarla. Appena abbassala che diventa più chiara e tutto. E tu portami un po' di canoncini da portare là. Adesso lo faccio il salotto, pane carasau, formaggio di quello marcio e vino. Quando scappa qualche vermuccio me lo dici che lo seguo. No, non ce n'è vermucci, no. È già crema. Ok, già. E ci sono. Allora, Sicilia invece è prosciutto crudo, schianatina, sottiletta e messo nel tostapane, capito? E poi mi chiede il vino e si tira avanti. Io prima ho preso tre bottiglie quel vino che conosco io, l'Arante Moro. Cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Invece per voi, Natalino, ripeti. Stai alcolizzato, ti stai? No, un mezzo bicchiere, poco poco mangiando. Ma subito, nei quattro batte sei a muro. No, Franco, l'abbiamo preso noi col vino per caso, non l'abbiamo mai aperto. L'ho aperto io qua e ho un bel buono. Altro che cosa è? Ah, ma buono a vino, ed è a 6 gradi proprio, quasi nulla. Buonissimo. Ma quello era il bracchetto, vero? No, è un altro nome, non mi ricordo più, com'era già, te lo ricordi? Bene, uno era bracchetto, infatti il bracchetto Natalia è durato un bel po'. C'era un nome strano, così do gentile, c'è scritto. Ehi, è poco buono il bracchetto, sì, c'è un grillo, già lo conosco. Questo li fa 3-0 al bracchetto. E vuol dire che sarà più buono visto che lo bracchetto. Sì, ma è tutto matto, E quindi sono tanti tipi di vino. Letizia. Ma io sto comprendendo sempre Ischio, di Loghi. Perché a mia moglie una volta abbiamo cambiato e gli ha fatto male. E allora, sempre di questo qui, che non riparti niente. E io per sbaglio l'ho preso perché non mi intendo il vino, capito? Io quando leggo che è dolce e frizzante me lo piglio. Lei ha provato per caso questo qua, ci posso dire che è buonissimo. Comunque, ho abbassato il volume, ora da lì. Non so se l'hai notato. E io ci capisci meglio quando abbassi. Perché poco fa la radio è confusa, mi hanno detto il pull-off. No? No, è Ciara. A me mi hanno detto che... No, in macchina, già detto che mi sentiva bene. Ma in macchina forse arrivavi più basso di segnale. Capito? Chi comanda? Dilla Gianni a vedere come si intende, va. E già, va a me. Noi che si avassa, va, non la gli vai giù. Quanto sono me. Avanti già. E adesso però si capisce la parola. Io prima, quando mi faceva le domande, non capivo a volte, capito? Non riuscivo a capire. Non era nitida la parola, era confusa proprio come c'era Natalino, non si ricomprendeva nulla. Franco, da te com'era? Cosa? A Franco sto dicendo, Franco, chi si è bruciato il caffè? Minimo, vabbè, io vado a cedere la cucina a vedere come c'è questa cosa. Accendi con c'è. Ma come si chiama? No? Senza candù, non può dire. E se può burro senza Eva oggi, mi. Cazzo, mi tocca cucinare la roba con le patine in pubblico. Oh, io ho tutto 24 su 24 acqua. Sì, so che è mancato stamattina alle 6:30, me l'ha detto mio fratello pure. Io invece da stamattina sempre l'acqua, anche stasera, pomeriggio sempre. Non è mai mancata, bene, sono un'altra linea. Ancora non è arrivata, alle 9:30 stanotte dice che arriva. Ma dimmi tu, affangualla. Era promessa a farci. E tu Gianni, l'acqua ti è mancata? No, io grazie a Dio ce l'ho autoclub. Sì, quando c'è l'autoclub che funziona, non mi manca mai a me l'acqua. Perché poi quando manca la cosa idrica, almeno una settimana ti dura quella dell'autoclub. Ma ci avete la cisterna? Certo. Ah, allora sì, perché se non c'è cisterna c'è l'autoclave e non fai nulla, se mancareva, mancareva. E l'autoclave cosa la metti a fare senza cisterna? Tu? Allora, ci sono praticamente dei palazzi alti che l'acqua arriva più o più sopra, non ce la fa. Praticamente mettono l'autoclave, capito? Noi abbiamo una cisterna. Abbiamo una cisterna e in più abbiamo l'autoclave. E adesso non capisco se è qualche lavatrice o se l'autoclave che fa questo rumore quando attacca e gli minuti si può dormire. Ecco, si può attaccare la lavatrice che è di quelle col cuscinetto consumato, ma bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Che ci stanno a mettere? Quante litri ce l'avete già? È una domanda da 30 milioni, io non ci sono mai entrato dove c'è il coso caldaie, eccetera, eccetera, non c'è una stanza caldaia, non sono mai entrato. C'è la caldaia, c'è la cisterna e c'è l'autoclub. Poi entra solo il tecnico quando va a pulire, a fare, e basta, io non ci sono mai andato. Quanti abitanti siete qua minimo, minimo è, sto dicendo. Si dice una laghetta, vuol dire che è manna, è una cisterna molto capiente, ci sono tutti gli inquilini, più li dura una ghetta di 10 anni, leva di la cisterna, vuol dire che è un bel capiente, un bel manna, altro che 8 miglia, magari sarà da 10 o da 15 burro. Sì, sono qui cisterne in plastica tipo siluro, se sono anche così. È plastica, basse, dipende, anche 12.000 meno, non si sa, bisogna vedere se dove sono situate c'è il posto pure, capito, ma penso di sì, quindi non c'è problema, vabbè, se vedo la ghida, ma leva, non la ghida non è mancata, dai, e per caso, sì, comunque con 10-12.000 litri la voglia, perché nelle scuole sono 12.000 litri, 10.000, capito, e poi c'erano, a parte quelli, i serbatoi, anche la cisterna sottoterra. Di nulla. Daniela, con polizia collegata. Quindi, so che ci si è fatto in plastica, amici, sì, che contiene nei minimo 10 miglia romano. Ma se quindi. Vabbè che una settimana non dura mai il guasto. Qui ci deve essere il guasto manno. A chi è da su manzano ghizzo, infatti manco la barba ma può fare, ragazzi. So che andava a farmi la barba non qui la era, andava a fare uguale a giudizio. Ma perché nella barba acqua mi? Cazzo non mi aveva la giudizio sabuna. La barba. Sì, la barba, ma non la bamba no, la barba con la R. Ecco la macchinetta, la devi sciacquare già. La macchinetta da barba, non devi sciacquare sotto l'acqua. Ma tu non hai compreso la battuta. Lei ha detto barba, io ho capito bamba. Cazzo ne voglia di bamba, già ce n'è qua. C'è un tipo incazzato nero qua che la vende. Cazzo ha filmato di rimpettaio mio qua e l'ha detto sicuria bamba. E chi ti ha detto bamba culo? Sì, così ha fatto video. Si è fatto ricadere. Ma Franco che fine ha fatto? Si sta facendo la merendina. Davvero, tesoro del piego di mangiare, sì. Io Santa Antonia. Oh, Giovanni fanno un tavolo. Sì, ho fatto un bel lavoro a Raimondo, una lapada che mi ha dato che passare dai, funzionare. Una lapada di serra, tipo quelle picche. E niente, l'ha portato tutta la camicia, l'ha tolta vecchia, poi l'ho levigata, pulita, spolverata, verniciata, due nani, nero opaco e poi l'ho trovata infine lo spray trasparente. E domani si piazza. Non ci ho preso, dove ne ha fatti nulla. Gianni, eia, riprenditela. Stavo cambiando radio. Non lasciane una fissa poi, la cambi una volta al giorno. Ecco, prima di lasciare il baracchino, cambi la radio e fai funzionare tutta la sera. Quando domani stacchi quella, come fai con l'altra, capito già? Così li fai andare tutte. Io l'ho cambiato già, adesso l'ho cambiato già tre. Questa è la terza. Ci manca l'altra e poi l'ho fatto scaldare tutto. Poi va bene, però io lo faccio una volta di fatto. Certo, non lo lascio fermamente, no, assolutamente, se no si rovina. Bisogna farle accendere ogni tanto, perché sennò poi vai a accendere e non ti funzionano, capito? Vabbè. Tanta lì, non riprendi. Che bacia a lei e che bacia a lui. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera. Chi sì? Eugenio. Eugenio, il grande Eugenio da Polo Torres. Buonasera a tutti. Capo G, come mi ascolti con questa radio? Ma io ti ascoltavo bene anche prima. Natalino è in cucina e non senti adesso. Ascolto sempre bene. Ehi, capo, lo sai chi sono, sì? Sei a Torino. Capo, adesso ho usato lo sciure, capito? Devo abbassare perché sennò gli amici mi ascoltano a bassi. Comunque, ben entrato Eugenio. Gianni, a te per Eugenio. Ciao Eugenio, mi hai sentito là dopo tanto. Che fine hai fatto? Già, non... Adesso sono entrato perché sono a casa, sono in malattia. E ho il tempo di modulare. I miei tempi non corrispondono ai vostri, capito? Quando io rientro la sera non c'è più nessuno, quando rientro alle 9 per lavorare a sera, tra cena e tutto, non c'è più nessuno, capito? poi la sera entro alle 5:30-6. Quindi l'orario che moduliamo, noi entriamo verso le 6, così 5:30-6 a modulare, e poi finiamo verso le 8, che poi andiamo a mangiare tutti, capito? Vedi, non coincidono gli orari, io molte volte entro, faccio chiamata, ma 9:30-10:15 non c'è più nessuno. Cara, anche a me è successo quando facevo i turni di sera, non potevo modulare perché l'orario che io uscivo non ve l'abbia nessuno. E magari qualcuno, magari la ragazza mi